Il punto di Stefano Folli. È bastata una piccola apertura di Enrico Letta alla riforma semi-presidenzialista e la sinistra si è lacerata, come sempre in questi casi. Ora, è vero che con le riforme istituzionali non si mangia, però si rischia di far funzionare meglio lo Stato. E in ogni caso si è sempre detto che la logica di questo governo richiede interventi per l'economia accanto a riforme che migliorino l'efficienza degli apparati pubblici e istituzionali. Il problema è che la sinistra non sembra in grado di affrontare il nodo di una modifica della Costituzione senza dividersi in due. Rodotà, che sta diventando il punto di riferimento di un ampio schieramento, lo dimostra con le sue riserve. Letta si trova stretto fra queste pressioni da sinistra, contrarie al presidenzialismo, e la necessità di non rinunciare alle riforme. E la destra, naturalmente, ha tutto l'interesse ad accentuare tali divisioni. In passato queste tempeste producevano la paralisi. Vediamo se accadrà lo stesso anche stavolta, quando le riforme, anche della legge elettorale, non sono più rinviabili.